Storica vittoria del Milan a Madrid nonostante le papere del portiere Dida. Berlusconi in Russia per una visita, può finalmente tornare a parlare di calcio. «Hai ancora posto in Siberia?» chiede all'amico Putin. «Sì, amico Silvio. Vuoi darmi Di Pietro, Franceschini, coniugi Mastella, quelli di Facebook? No, guarda, pigliami quel Dida!» Meno male che Silvio c'è.